Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale la frittata è fatta. Tra guastatori e giudici d'assalto, tra sceneggiate e giudici d'ascolto, praticamente la frittata è fatta. Vai, Sam. L'altra sera abbiamo fatto un comunicato, noi e il gruppo misto, perché non partecipavamo alla buffonata che state portando avanti con NCD in commissione, e questi pagliacci di NCD non sono venuti a farvi, non sono venuti a votare. Senatore Rola, non sono venuti a votarvi. Senatore Rola. Questa è una messa in scena vostra. Ieri per l'ennesima volta avete chiuso la seduta in fretta e furia per andare a vedere la Juventus. Questo è indecente, questo è indecente, questo è indecente. Dai, per vedere la Juve, ma che vergogna, vergogna per vedere la Juve. Voi dovete andare a zappare la terra, perché qua in sul... Senatore Rola, non offende, senatore. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucampo dalla mattina alla sera, e a pranzo la cipolla e un pezzo di pane duro, e a cena una minestra scunnita. Beh, ma il senatore Airola ha teorizzato ciò che Angelino ci racconta da 3 anni, cosa ci vuole per i politici, la zappa ci vuole, la zappa da 7 kg. Era il senatore Airola del Movimento 5 Stelle per vedere la Juve, la Juve. Cioè, interrompono la seduta per vedere la Juve, ma vi rendete conto? Io capisco, per vedere una gran bella partita del Milan, ma la Juve, ma dai, su. Eccoci qui, cari amici, è venerdì. È venerdì, le 6:32 minuti. Dico sempre questa parola, è venerdì, perché dovreste avere una telecamera per vedere le facce di Peter Bescapè in regia di Lorenzo Nespoli, in redazione Al di là del vetro, come si diceva nelle radio anni 70, sono al di là del vetro. E perché poi c'è un vetro che ci separa, no? E li vedo e hanno questo ghigno, come dire, è venerdì. Allora, 349-238-6666, voi sospendereste una seduta del Senato per vedere la Juve? Vi faccio questa domanda, faccio vedere, questa domanda, per vedere la Juve. Chi è? Lino del Frosinone? Basta per adesso. Ci ameranno un po', avremo guadagnato tipo 15 ascoltatori a Frosinone. Grande Frosinone! Frosinone Ale, non ti lascerò mai. Sarò sempre con te. Eh? Vorrei sapere chi l'ha fatto questo. Dovremmo chiamare l'autore dell'inno del Frosinone. Allora, voglio salutare un grandissimo ingresso nuovo al Parlamento, una signora che ho scoperto qualche volta quando l'abbiamo invitata per altre tematiche, quando parlavamo di marmotte, marmotte che sono animali terribili, a volte rodono, rosicchiano e fanno danni, tanto che in Trentino Alto Adige qualcuno le voleva far fuori. Carla Rocchi, che è presidente nazionale dell'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, buongiorno, come va? Buongiorno, buongiorno, che piacere per me. Oh, che bello, che bello. Carla Rocchi qui al Parlamento, che è il bar più pazzo del mondo, si può dire, e quindi si può dire ciò che le pare, assolutamente. Apriamolo anzi il Parlamento, perché è tornata e voglio chiudere la settimana con tanto con un rimprovero. Devo fare questo rimprovero alla nostra, la nostra, la nostra, sarà la nostra l'aurora, L'Aurora. Buongiorno Mila, un caro saluto a te, un caro saluto ai tanti, troppi amici di Radio 24. Troppi? Perché troppi? Troppi, troppi, perché la mattina bisogna ascoltare Radio Padania. Quando vado in giro alle feste della Lega mi dicono: ah, ti sento a Radio 24, mi altero. Ti alteri. Troppa gente qui che ascolta Radio 24. Radio Padania libera però, libera. L'aria in Padania libera. Libertà metafisica. Sì, libera. No, un rimprovero, perché sono andato settimana scorsa in Alta Val Seriana, dalle tue parti, e mi è venuto un raffreddore, un mega raffreddore, tra l'altro. Perché non c'hai gli anticorpi di noi gente nata sui montagna. Va bene. Così sarà così. Non c'è più gli anticorpi, Mila. Non c'è più gli anticorpi. Allora, va bene. Fatto questo lievissimo rimprovero, io vorrei subito sottoporvi una cifra. Cara Carla Rocchi, 60 milioni di euro. Che farebbe lei con 60 milioni di euro? Ma io ci farei tante belle cose, perché in realtà non sono mai troppi soldi. Quando si dice troppi soldi non sai che farci, in realtà non ci sono mai troppi soldi. Mai. Si possono fare 60 milioni di buone cose, 60 milioni di gite, 60 milioni di pazzie, si possono fare tante cose. In realtà è che nessuno ce li dà mai 60 milioni di euro. A noi no, ma all'amministratore delegato della Volkswagen sì. Perché è stato bravo. È stato bravo. Un ragazzo d'oro, un ragazzo che prima aveva fatto in primavera una lotta disumana con un altro pretendente al trono della Volkswagen, sì. Poi ha fatto questo capolavoro di operazione, sì. Per cui non solo va a fondo la Volkswagen, va a fondo tutto quello che è collegato, ma temo che andremo a fondo, magari noi siamo qui, però lei si immagini quanto si stanno stropicciando le mani tutti i produttori di auto dell'est asiatico, che poi mi immagino anche lì saranno auto perfette, certo. Con emissioni controllatissime. No, non lo so, però 60 milioni di euro, questa è la cifra, cara Aurora Lussana, si prende 60, ma per carità, tutto secondo la norma, c'è la liquidazione, la pensione, 60 milioni di euro per l'amministratore delegato Volkswagen, tedesco? 60 milioni di calci in culo si doveva pigliare questo qua, il francesismo. Sì, sono ammessi i francesismi. Cara Aurora, tu che ci faresti con 60 milioni? A cambiare la macchina. Perché c'è? No, ci avrai mica una Volkswagen. Ma secondo te c'è la Volkswagen? No, c'ho la Ferrari dei poveri, color rosso maranello, la 500. Ah, c'è la 500, sì. È vero, ce l'avevi già detto. Ma vecchio modello? No, un 2008, no, nel senso no. La 500 Pop, rosso maranello, Pop. Un po' conciata, carrozzeria un po' come me, la carrozzeria è andata ma il motore va alla grande. Avrei detto una bella Prince Verde Padania, invece no. È un po' una scelta italica, questa, rossa maranello. Ma stai tu sai che qua in Lombardia facevamo macchine, moto meravigliose e poi ci hanno defraudato di tutto, la globalizzazione ha cancellato questa grande tradizione dei motori lombardi. L'auto bianca che avrei comprato, sono andata a comprarla, non c'era più. Mi dia un'auto bianca, è finita. 60 milioni di euro, ma per carità, non voglio fare facili scandalismi, non voglio neanche buttare la croce sulla ricchezza, tra l'altro prendeva, non fare il pauperista alla Papa Francesco, no. Ma che c'hai contro il Papa che ha detto abolite la pena di morte in America? Per me è diventato un idolo nel momento in cui ha detto questo, abolite la pena di morte, ha detto agli americani, è diventato di colpo un idolo, mi sto per andare a messa, finisco la trasmissione e vado a messa così per ringraziare il Papa. Quanti convertiti sulla strada di Papa Francesco. Non lo so. Carla Rocchi secondo me è una laica, una laicona, però questa cosa di Papa Francesco, perché Aurora ce la critica? La verità è che questo Papa è proprio un figo, nel senso che è intelligente, ma tanto. Io non credo che pensi tutto quello che dice, francamente, sarebbe troppo. Addirittura. Sì, francamente, nella testa sua ci sta solo lui. Però ha colto il tempo, ha capito quali sono le cose da fare. Questo Papa dovrebbe venire, se avesse tempo, voglia, e sarebbe comunque una diminuzione, un paio di volte l'anno a far qualche lezione in Parlamento, perché ha una leadership innata, proprio è uno che... E poi anche nei simboli, quello che lui dice è importante, ma guardate che questo Papa ha vinto la sua gara, come posso dire, la sua battaglia mediatica, quando si è messo al collo una croce di ferro, sì, e ai piedi due scarpe usate. Oh, capito, Aurora? Mi vengono le scarpe rosse. Lei è una di quelle che vuole portare le scarpe rosse. Le colombe come sono? Bianche, belle di velluto. Le rosse. Quelle, lei vorrebbe il Papa con le scarpe di velluto, quelle di Ratzinger, quelle da 900 euro, neanche al paio, a Tomaia proprio. Rosse. Oh, rosse, belle. Le colombe. Vabbè, Aurora lo sa, è così. Comunque 60 milioni di euro, io non so se vi siete ripresi da questa notizia, cari amici che state magari già andando a lavorare per 1.000, 1.500, 1.600. Licenziato! Ecco, questo è il nostro Oscar Giannino, che licenziato ma con 60 milioni di euro. Questo milione di euro, Carla Rocchi, milioni, 60 milioni, 70 milioni, 80 milioni mi evoca qualcosa di diverso. 80 milioni, 85 milioni. Vediamo se Aurora Russana mi aiuta. 80 milioni, 85 milioni. Stai evocando il leghista, porca miseria. Calderoli. Calderoli. Questa passione per il grande dentista bergamasco. Ma Calderoli, ma come si fa? Ma come si fa? Ha ritirato ieri 10 milioni di emendamenti e quindi ne rimangono solo 75 milioni. Ma perché lui ama molto Jacques Derrida, di quella scuola lì. Sì, ma sì, certo, no, certo. È fondamentale la deterrenza nucleare, sì, cioè tu minacci, certo. E beh, qualche effetto l'ha sortito. Ma quale effetto di essere considerato il re dei cialtroni? Scusami, adesso così proprio. Ha fatto un po', ripeto, di deterrenza, ha minacciato con questi emendamenti, sì, la maggioranza, la tua adorata madre di tutte le riforme, la nostra madre costituente Boschi, sì. Insomma, si tenta di fare opposizione. Sono in quattro i senatori della Lega, fanno il loro mestiere. Carla Rocchi, tra l'altro, è stata in Parlamento, se non sbaglio, no? Io sono stata per quattro legislature, devo dire che c'erano anche all'epoca c'erano dei bei mattacchioni, eh? Non cioè? È che facevano? Non facciamo mancare niente. Beh, io avevo molta simpatia per i leghisti. Mm-hmm. C'era un leghista della prima ora, che adesso non mi ricordo più il nome, che si veniva sempre con le cravatte texane, quelle Sì! Speroni! Mitico. Poi c'era un altro fantastico personaggio che era Boso. Erminio, Aurora, buon gustai alla nostra presidenza. No. Era lui che all'epoca pesavo 40 kg di più, devo dire, sembravamo due gemelli, e lui mi chiamava, mi cercava molto, era molto appassionato di questa mia taglia, e mi diceva Carlina, urlando come un pazzo. Hai capito gli altarini di Erminio Boso? Carlina pensava la collega senatrice. Ma ragazzi, ma 80 milioni. Tra l'altro qualcuno dice che non esistono, che sono come una leggenda, sono come il mostro di Loch Ness, una leggenda metropolitana, nessuno li ha contati. Ma sì, come quando dici ho 100 milioni di testate nucleari, ponte a partire, poi anche appunto, se non ce le hai, è quella, cioè, magari non, non esistono neppure. Comunque sentitelo qua, Calderoli, parla dell'algoritmo che introduce l'iperspazio, la quarta dimensione. L'algoritmo introduce una quarta, tra virgolette, dimensione, che teoricamente a seconda dell'inclinazione dell'asse può produrre emendamenti all'infinito. Può essere usato anche per altri provvedimenti. Carla Rocchi. Ma in Parlamento si fanno però dei bei sonni, come si dice, perché io mi ricordo che ai miei tempi ogni emendamento andava firmato. Adesso qualcuno ha controllato se Calderoli ha firmato 80 milioni di emendamenti oppure no. Basterebbe questo per farli decadere, solo che si fanno dei sonni qua, io non capisco. Come minimo una slogatura di polso gli si deve, cioè per firmare 80 milioni. Comunque, Milan, tu sei infastidito da chi fa opposizione al premier. Io l'accusa è mia, l'accusa è a me. Rocchi. Perché Aurora così mi dà dello xenofilo. Poi cosa? Xenofilo, sei xenofilo. Sono xenofilo. Poi sei filorenziano. Filorenziano, poi? Sì. No, basta, mi basta. Cioè, beh, due difettoni. Sono già due mazzate. Sono già due mazzate. Xenofilo e Filorenziano, cosa mi vuoi dare? Un calcio nelle palle? Non lo so. No, questo mai, sai che io sono contro. Anche nelle bestie sono contro la castrazione. Ah, pure bestia, pure bestia. No, bestie, io non ho guai, io sono contro le mutilazioni genitali in genere. Va bene, comunque, allora, io vorrei fare questa domanda a Carla Rocchi, perché Carla Rocchi ama gli animali, ovviamente, essendo dell'Ente Nazionale Protezione Animali, e quindi amerà anche me in quanto bestia, definito così da Aurora Lussana. Però Calderoli è famoso perché in una celebre intervista sa che Calderoli ama gli animali, ma proprio li adora, ha tanti animali Rocchi, e un giorno fece un'intervista paragonando i politici agli animali, dicendo che Alfano gli sembra una rana. Sapete che c'è il ministro Cancellieri, quando c'era la Cancellieri, un San Bernardo. Zoomorfismo si chiama, Milan. Come si chiama? Zoomorfismo. No, infatti, il presidente Letta, quando c'era Letta, un airone. Ecco, io vorrei, ma veramente. Guardi, proprio gli animali non sono quelli. Voglio dire, Alfano sembra più che altro una marmotta, vogliamo dire? Perché guardare il sorriso di Alfano, più lo vedrei più sul roditore che sul batrace. Roditore, vabbè, Alfano. Più sul roditore che sul batrace. E Renzi? Renzi? Renzi pure è un roditore mica da poco, Renzi è un roditore. Renzi sembra un castoro, sembra lì che Renzi veramente ha rosicchiato bene le fondamenta di tutto l'apparato della democrazia. Però quelli che rosicano sono un po' più quelli della Lega, per esempio. Salvini, interessante. Salvini, come lo vede Rocchi? Salvini, Matteo Salvini. Salvini ha un qualcosa di, come posso dire, di rustico in qualche modo, no? Sembrerebbe, ecco, uno va in campagna e esce una cosa in un cespuglio, esce Salvini. Un gallo cedrone. No, vedo più su una cosa, su un quadrupede, non saprei dire, una cosa così. Però è simpatico, perché intanto è sveglio. E intanto Salvini è una persona, anche lui sembra strano, oppure non sembra strano affatto, sinceramente amante degli animali. Noi abbiamo avuto una volta un attacco a un nostro rifugio, e avevamo dei vicini scomodi che però non si può dire, perché se uno dice che siamo stati attaccati dai rom pare brutto, e Salvini è venuto senza nessuna pubblicità. È perché ha visto i rom? Fa niente, però è venuto a trovarci, è venuto a darci solidarietà, e quindi io, siccome apprezzo gli atti nelle persone, non i proclami, devo dire che l'ho apprezzato. Capito, neppure Aurora Lussana sapeva di questo episodio, è andata a salvare gli animali, quindi un quadrupede. Adesso andiamo così, andiamo al traffico e poi ci dice bene che quadrupede è, pensi un po'. Amore, ma che fai? Sai benissimo che a quest'ora io voglio solo il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Ialino, abbi pazienza, c'ho un dubbio. Ma quelli che hanno votato a favore della legge Bavaglio, ma sono parlamentari o sono camorristi? A me la Boldrini è così antipatica da tanto tempo che oramai ha fatto il giro di 360 gradi e mi è addirittura diventata simpatica. Milan, hai fatto fino alle 9:30 e tira fino alle 10? Sei proprio un debosciato. Milan, la parola all'esperto. Io debosciai, tu debosciasti, egli debosciò, noi debosciammo, voi debosciaste, essi debosciarono. Tutto giusto, maestro? Caro signore Milan, siamo proprio rovinati qui, non c'è più niente da fare. Il paese nostro è il paese diventato il paese del gran conforto. O piove o tira vento o sono morto. Per fortuna che c'è il grande Alessandro, che gli manca solo di imbasticare il fuoco. Ciao Alessandro. È tornato Angelino, questa Carla Rocchi, la nostra segreteria telefonica di Matti Squinternati, a cui io voglio un bene dell'anima, come a tutti i matti. E allora con Carla Rocchi, Aurora Lussana, cara Aurora... dobbiamo fare sentire lei, perché mi ha detto che la volevi. Ah no, prima ecco, Salvini, Rocchi, ha pensato al quadruplo. Ah già, è vero. Beh, Salvini è proprio un cinghialotto. Di quelli carini, Un po' craxiana, come immagine. Sembra, no, è un cinghialotto mongolo, perché ha questi baffi intriganti. È un cinghialotto che si è fatto tanta strada, che è arrivato fino qua, che sta nel dalla bosco. Mongolia, mamma. È un cinghialotto mongolo. No, ragazzi, a me è venuta fame, è venuta voglia di polenta e cinghiale. Ecco. E allora mangiamoci Salvini. No, esatto. Ma, scusa, ma non chiedi a chi assomiglia, non so, l'ex ministro dell'integrazione? L'ex ministra. Mamma mia, devo dire, Cecil Kyenge. Lei somiglia a se stessa, cioè, come ciascuno di noi. Oh, ecco. Aurora, perché a chi assomiglia Cecil Kyenge? Dai, no, ma io tu. Non ho questa capacità qui di riprodurre. No, ma io no. Sei una me le bestie hanno una dignità loro, non riesco mai a rivederle negli esseri umani. Sei una farabutta. Allora, senti qui, visto che mi hai detto prima durante il traffico che volevi sentire Maria Elena Boschi. Lo so, la tua donna angelicata. Tanto gentile, onesta pare. Sì, dai, è da un po' che non mi fai l'imitazione della Maria Elena Boschi, però. No, quando passerà la riforma, vedrai il paese. Sentila qui, sentiamo. Dobbiamo valutare se le C e le S suonano sempre. Possiamo oggi tentare anche di chiudere delle pagine aperte, delle pagine bianche lasciate già dai costituenti, sì, sì, proprio perché allora non fu possibile trovare un punto di accordo su tutto. Sì, qui siamo innamorati della voce di Maria Elena Boschi, Carla Rocchi, scusi, è questo feticismo un po'... No, siamo sei, si vede che ti evoca nell'inconscio. Ma no, ma ha una voce bellissima, effettivamente. Sì, sì, sì, ma meravigliosa, certo. Infatti. Ma io lo so, ma io preferisco le voci un po' più di tono, perché a me sembra un po' una, adesso con tutto il rispetto, sembra il ricettario dei pasticcini. Oh, dello zucchero, della farina e poi mi suave. Ma perché a Milano sono le donne così? Ah sì? No, ma è la voce. Ma com'è che Erminio Boso la rincorreva per i corridoi del transatlantico? Perché era pazzo di me, naturalmente. No, certo, ma cosa le diceva? Carlina! Se ve lo dico, mi diceva, sì, ma urlando come un pazzo, ci sono testimoni. Carlina, ho comprato un materasso nuovo. Gli dicevo, per carità, Erminio, vedevo questa scena mostruosa, me con 40 kg di più e lui che già ce l'aveva del suo. Cioè, capito, Erminio Boso. Evidentemente è un maschio padano, Erminio Boso. Erminio Boso, maschio padano, solo così si sa, non vorrei evocare il famoso motto della Lega, ma si sa. Cara Aurora, allora ci lascia sempre con la ricetta Aurora Lussano. Scusa, prima hai detto cinghiale, poi la Rocchi non mangia animali, adesso vabbè, ponente no. Cinghiale. Beh, non penso. No, siete buoni, facciamo una ricettina di quelle buone, che non penso ci deve morire dentro nessuno. La presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali, ti immagini che mangia polenta e cinghiale? No, proprio no. Quindi Aurora, quelli che ti abbattiamo. Vabbè, dai, adesso questa è un'altra polemica che affronteremo. No, in effetti no, ho comprato la zucca, che adesso costa poco, sì, e faccio il riso e zucca, perché sai che adesso c'è l'invasione del riso asiatico, è un dramma per i nostri risicoltori, che noi dobbiamo sostenere prodotti autoctoni, risi padani, sì. Allora adesso la zucca qua costa poco, tipica tradizione della nostra Lombardia, riso e zucca, e puoi farlo con più brodo, un pochino più asciutto, sì. E il riso e zucca è una meraviglia. Bene, infatti è buonissimo. L'importante è il riso padano autoctono della nostra assolutamente terra. Non sì, l'invasione di riso, riso asiatico. Esatto. Senti un po', mi chiedo una domanda un po' intima, cioè se come sei incinta, però non credo che tu lo vuoi. Ma chi è la mia ginecologa? No, non lo so, un ascoltatore di SMS. Vado a fare l'ecografia transvaginale e poi glielo dico. Va bene, ok, ci mandi il referto. Io vi ringrazio Aurora Lussana e Carla Rocchi per essere state con noi. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino.

volontaria per i migranti, dice: sono stata stuprata al confine da un senegalese, ma per un mese mi hanno chiesto di tacere. È una delle No Borders, una delle associazioni che aiutano i migranti, che dice: mi hanno violentata un mese fa, ma mi hanno detto di tacere per non creare polemiche sugli immigrati. Il secolo XIX. Ma eccoci qui, la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, una pagina del giornale con tutte le faccine dei concorrenti del Grande Fratello! Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Ciao Milan, che te mattino mi a fuoco. Ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Ma sei fuori con un balcone, ma cosa ti sei fumato? Benissimo, le 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Oggi per l'ultimo giorno andremo in onda fino alle 9:30, e poi da lunedì fino alle 9 torniamo al nostro orario consueto. Allora, cari ascoltatori, parleremo certamente anche del caso Volkswagen, lo faremo dopo le 9, anche della liquidazione, se volete, dell'amministratore delegato Winterkorn, che se ne va con 60 milioni di euro. Sì, lo so, lo scandalo, certo, fa scandalo sentire questa cifra. Comunque, tenetela lì che ne parleremo più tardi, come più tardi avremo anche il sindaco di Padova Bitonci. Ma voglio partire da un caso di cronaca che ieri riportava Panorama in una bella inchiesta firmata da Carmelo Abbate, che tra l'altro è con noi. Ciao Carmelo, buongiorno e benvenuto. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Allora, molti ricorderanno una vicenda del 6 agosto 2010, Milano. C'è un cittadino ucraino, si chiama Alek Fedchenko, che ammazza per strada a pugni una donna, Emlu Arvesu, filippina, che ha avuto una sola colpa: passare di lì in quel momento per caso e attraversare, tagliando la strada, a questo cittadino ucraino. Questa donna stava andando a lavorare. Fedchenko, forse ve lo ricordate, era un pugile dilettante, affetto, poi questo si è scoperto, da schizofrenia, e in un raptus uscito di casa aveva ucciso a pugni la prima persona che aveva incrociato. E così, per sfogo, per puro caso, questa donna è stata uccisa. Bene, non ci fu alcun processo perché una perizia dichiarò Fedchenko incapace di intendere di volere, dunque la legge prevede questo: una persona incapace di intendere di volere non può essere processata. E allora il giudice lo ha messo in un ospedale psichiatrico giudiziario, dove è rimasto fino al 2014, e oggi è libero, è tornato in Ucraina, è incensurato. Non ha mai scontato un giorno di carcere, visto che non è mai stato processato, ha la fedina penale pulita, non ha mai dato un euro di risarcimento ai familiari della vittima. Carmelo, tu sei andato a cercarlo in Ucraina, dove vive, cosa fa questo Fedchenko? Guarda, è incredibile, è veramente una pagina vergognosa per la giustizia italiana. Vive da uomo libero, nessuno sa chi sia, non ha, come hai detto tu, ha la fedina penale pulita, è incensurata, è un uomo senza macchia, cioè un uomo che è partito dall'Ucraina da uomo libero, è venuto in Italia, ha ammazzato una donna a cazzotti, come hai detto prima, è ritornato in Ucraina da uomo libero, vive in un appartamento dove risulta registrato con lo zio e con la moglie dello zio, e guida un autobus, ha un minibus, va in giro per l'Ucraina a portare donne e bambini, e cosa più grave, che veramente mi lascia sgomento, è che nell'appartamento dove lui risulta vivere è legalmente registrato un fucile. Cioè, significa che questa persona, che secondo la nostra giustizia è uno schizofrenico paranoide, ha a disposizione vicino al letto un fucile, ed è un uomo completamente lindo, pulito, sì, Fedina penale pulita, proprio perché non è mai stato processato. Questo, diciamolo Carmelo, per la legge italiana è anche un principio, se vuoi, di tutela nei confronti di una persona incapace di intendere di volere, anche se capisco che è molto scomodo e molto difficile da digerire, no? Dopo quello che ha fatto. Ma sai, se sei incapace di intendere di volere, 5 anni dopo, 4 anni dopo non sei capace di portare un autobus, di vivere una vita come quella che lui vive adesso. Quello che lui vive adesso, per carità, potremmo anche dire che la straordinaria riabilitazione e il funzionamento delle strutture di riabilitazione nostre, in questo caso dell'ospedale psichiatrico giudiziario, ma facciamoci due... Ma che ridere, cioè, no, risate nervose, certo, è una vergogna, certo. Cioè, è una vergogna, belle bontai, così è l'incapacità di intendere di volere, lo diciamo chiaro e tondo a chi ci ascolta, è una specie di tunnel sotterraneo scavato sotto la cella per far fuggire le persone dal carcere. È questa, perché la verità vera è, e lasciamelo dire, che se questa persona non fosse stata una povera filippina che nessuno conosce, che nessuno... interesse della sua sorte, non staremmo qui oggi a parlare di questo. Se la vittima fosse stato un italiano, se la vittima fosse stato un italiano con un cognome pesante, se la vittima fosse stato qualcuno che la politica avesse strumentalizzato in qualche modo, e viva Dio quando speculano su questo, allora saremmo qui a non saremmo qui a discutere di questo. Siccome questa era una povera filippina che nessuno si è filato, neanche le istituzioni, né un euro di risarcimento, un sostegno alla famiglia. Questa è un'altra cosa davvero clamorosa. Io infatti voglio salutare, insieme a Carmelo Abbate di Panorama, oltre che collaboratore di Quarto Grado su Rete 4, Fabio Belloni, che è l'avvocato che all'epoca ha difeso la famiglia, ha rappresentato. Poi, avvocato Belloni, buongiorno. Cosa si può dire difeso? Non c'è stato un processo, quindi come ha rappresentato la famiglia della filippina, della donna Emlu Arvesu? Buongiorno, buongiorno a tutti i gentili ascoltatori. Forse bisogna innanzitutto correggere questo primo dato. Non è vero che non ci sia stato un processo, perché un procedimento prima e un processo poi c'è stato. Ci sono 22 pagine di sentenza scritta dal giudice per le indagini preliminari che si concludono con un proscioglimento. Quindi la difesa in realtà vi è stata, sì. Vi è stata la partecipazione ad una perizia che è stata disposta nelle forme dell'incidente probatorio, perizia alla quale abbiamo partecipato attraverso un nostro consulente. È un caso problematico, se vogliamo aggiungere benzina sul fuoco, allora potremmo dire che in realtà nel novembre del 2007... Sì. L'allora imputato è stato accompagnato dalla forza pubblica presso l'ospedale maggiore. Ma questo prima, perché successo? Il delitto è successo nel 2010, tre anni prima del delitto, quindi si sapeva che le sue condizioni erano evidentemente... Che aveva fatto? Si trovava nel cortile di casa nudo con una mazza da baseball in mano, aggressivo nei confronti della madre, che identificava come il diavolo. Questo è stato l'antecedente di quel che poi è successo. Tre anni dopo poi ha ucciso. Tre anni dopo Emlu Arvesu. E ha ucciso vedendo il diavolo, perché questo è il punto. Questo è quello che è stato accertato dalle perizie, immagino, in fase... Sostanzialmente sì, cioè la perizia, ma in realtà l'indagine e la ricostruzione fatta dagli organi di polizia hanno accertato un'aggressione senza motivo. Sì. Inizialmente sembrava un tentativo di rapina. Esatto. In realtà era uscito di casa, non conosceva assolutamente, non si conoscevano queste due persone, ha avuto questa donna filippina proprio l'unica colpa, disgrazia più che colpa, di incrociare nel momento sbagliato Fedchenko. Però le chiedo, avvocato, è vero, non c'è stato neanche un euro di risarcimento né da parte della famiglia né da parte delle istituzioni? Cioè, vi aspettavate qualcosa di più? Ha sentito Carmelo Abbate dire: fosse stata un'italiana la vittima, non, forse avremmo raccontato un'altra storia. Ma guardi, questo sinceramente non so, non mi spingerei fino a questo punto. Io osservo che certamente il giudice non ha potuto che applicare la legge. E applicando la legge, se la persona non è responsabile del fatto, certamente non può essere condannata ad un risarcimento. Mm. Perché nell'ospedale giudiziario solo 4 anni? Lei si è dato un... Perché, voglio dire, se è in questa condizione, ci ha detto che anche nel 2007 aveva manifestato segni della malattia mentale che evidentemente ha, perché solo 4 anni? E evidentemente attraverso un percorso di cura si è ribilanciato quello squilibrio di carattere psichiatrico e a questo punto è stato dichiarato guarito. Certamente è una guarigione con un grossissimo punto di domanda. È questo certamente. E sulla questione del risarcimento invece, per concludere, vi aspettava la famiglia secondo lei o il fatto che sia stato giudicato incapace di intendere di volere? Allora, il problema è un problema più complesso. Certamente l'incapacità di intendere e volere preclude la richiesta di risarcimento alla persona, come ho detto, perché non responsabile. Certamente le colpe dei figli non possono ricadere sui padri in questo caso, e cioè sulla famiglia. E sulle istituzioni che nel 2007 avevano avuto dei sentori e non hanno reagito? È stata esplorata anche questa direzione, ma si è ritenuto che non vi fossero profili di responsabilità. Certamente però il problema non è chiuso, perché esiste una direttiva, che è la direttiva 2004-80 del 29 aprile del 2004, che ha imposto agli Stati membri dell'Unione Europea che a far data dal 1 luglio del 2005 si sarebbe dovuta apprestare una tutela remediale risarcitoria a beneficio di chi? Delle vittime di reati violenti e intenzionali, laddove impossibilitate a conseguire dagli autori delle condotte criminose il risarcimento del danno. Sì. Allora, l'Italia è rimasta inadempiente ed è stato accertato l'inadempimento dalla quinta sezione della Corte di Giustizia. Una delle cose, una delle cose per cui siamo inadempienti. Allora, io vorrei tornare per un attimo a Carmelo Abbate. Ribadisco ai nostri ascoltatori, stiamo raccontando la storia di Oleg Fedchenko, che è ucraino, che ha ucciso a pugni una donna filippina, Emlu Arvesu. Era il 2010, in agosto, a Milano, e come scrive Carmelo Abbate nell'inchiesta, è un omicida senza macchia. Hai sentito allora, Carmelo? È in Ucraina, tu hai provato a cercarlo, non sei riuscito a incrociarlo, sebbene siete andati un po' a cercare tutte le sue tracce, a chiedere anche alle persone che vivono nella casa dove presumibilmente vive lui. Dice l'avvocato, evidentemente dopo 4 anni era... Come possiamo dire? Guarito, perché sennò non sarebbe uscito dall'ospedale giudiziario, o no, Carmelo? Guarda, in Italia, nel mondo, ci sono giudici codardi che applicano la legge e si nascondono dietro la legge, e poi ci sono giudici che utilizzano la legge per risolvere i casi. E tu ricorderai benissimo il caso di Cabobo. Esatto, Cabobo, che a Milano ha ammazzato 3 persone. Esatto. Allora, io adesso non ne voglio fare una questione immigrati italiani, però la sostanza nel caso di Cabobo è che, grazie a Dio, c'è un perito, credo che fosse l'amico Massimo Picozzi, tra l'altro, che in qualche modo riconosce un'incapacità di intendere e di volere, ma parziale, in modo che la sostanza è che Cabobo se ne va in carcere, dove merita di stare, dopo aver ucciso con una mazza in strada 4 persone. Che avevano anche loro il torto di passare di lì in un momento in cui questo aveva la mosca al naso. In questo caso non mi si può venire a dire che il giudice applica la legge con una perizia incapace di intendere di volere, perché è una vergogna, e questo dobbiamo avere il coraggio di dire. È una vergogna per noi, ma è una vergogna anche per quei poveri ucraini ignari che in questo momento sono su un autobus tra Kiev e la campagna di Kiev, con un uomo al volante che teoricamente in questo momento si gira, prende il volante e se ne va in un burrone. Lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire? Perché poi la sostanza è questa. Certo, saranno ucraini e ce ne possiamo anche fregare, ma sono esseri umani, e questa è la verità vera. Sì. L'incapacità di intendere di volere è una grandissima presa in giro. Questa è la verità, una grandissima presa in giro. Perché dici così? Perché ci sono dei casi in realtà accertati, io non lo so se questo caso poi è clamoroso per come hai tracciato i contorni, però il fatto della incapacità di intendere di volere, purtroppo so che fa male dirlo per chi soprattutto si mette dal punto di vista della vittima, però esiste o no? Certo, tutti possiamo essere incapaci di intendere e di volere in un determinato momento, ma alla fine, voglio dire, comunque devi avere, ogni azione deve avere una conseguenza, ogni azione ha una responsabilità. È una scappatoia, è troppo facile, non so come dire. Tutti possiamo scegliere la scorciatoia nella vita, ogni giorno, nella mia vita, nella tua vita, nella vita di tutti noi. C'è sempre una scorciatoia, una cosa più facile in cui, per carità, Oleg Fedichenko viene lasciato dalla fidanzata e scende in strada e fa quello che fa. Scusami un attimo, se era incapace di intendere e di volere, se era schizofrenico, non mi si può venire a dire che 4 anni dopo quest'uomo è in grado di vivere una vita come tutti noi, con un fucile in casa e con un autobus. Ma questo è l'aspetto assolutamente più sconvolgente, anche perché chi ha un po' di esperienza di questo tipo di malattie sa che sono malattie purtroppo spesso croniche, non risolvibili, e non risolvibili certamente in 4 anni, ma se non dopo un lunghissimo percorso esatto, di terapia. Questa è la sostanza dei fatti, scusami, è sì. La misura dell'ospedale psichiatrico giudiziario è stato revocato non perché lo abbia chiesto la sua difesa, l'avvocato Paolo Avvocati, non l'ha chiesto lei, cioè sono stati questi di loro spontanea volontà che lo hanno dichiarato assolutamente guarito e capace di riprendere la vita come tutti gli altri. Ci deve essere un minimo di proporzione tra l'offesa che hai arrecato e la punizione che ne ricevi, se no siamo veramente uno stato ridicolo. Io l'inchiesta, se volete, la trovate su Panorama, è di Carmelo Abbate. Panorama è uscito ieri, ma comunque lo trovate in edicola. Carmelo, questa sera ci ricordi solo l'appuntamento a Quarto Grado, che ora è? Certo, alle 21:15 come al solito su Rete 4 con Gianluigi Nuzzi ai comandi. E Carmelo Abbate anche e altri. Io mi fermo qui per il momento e vi ringrazio, Carmelo Abbate di Panorama e l'avvocato Fabio Belloni, che è il legale della famiglia di questa donna filippina Emlu Arvesu. Dopo la pubblicità, il numero verde non l'ho dato, se volete intervenire 800 24 00 24, avremo il sindaco di Padova della Lega Massimo Bitonci, poi ci occuperemo del caso Volkswagen, quindi delle macchine e anche delle polemiche per la buona uscita dell'amministratore delegato Volkswagen Winterkorn, che si è preso 60, si prende probabilmente, se l'azienda gli riconosce tutta la liquidazione, probabilmente cercherà di trattare su questo, se no si busca 60 milioni di euro. Eccoci qua, allora, alle 8:41 minuti, cari ascoltatori. Voglio salutare subito il sindaco di Padova, Massimo Bitonci della Lega. Sindaco, buongiorno, come sta? Buongiorno, molto bene, buongiorno. Tutto a tutti. Bene, anche se le accuse di razzismo volano, sa l'ultimo che le ha dato del razzista chi è? Alessandro Gassman. Sì, eccolo lì, esatto. Alessandro Gassman. Alessandro, allora, c'è questa vicenda che è stata raccontata anche da Aldo Cazzullo sul Corriere a Padova, un parco in cui è stato messo il divieto, gli adulti possono entrare solo se accompagnati da un minore di 12 anni. In sostanza si vuole evitare che ci siano i migranti che utilizzano quel parco, Sindaco. Ma in realtà è un'ordinanza vecchia, quindi io riassumato un'ordinanza ancora dell'amministrazione di sinistra, sì. Che ho applicato però anche su altri parchi, cioè l'ordinanza cosa dice? Nei parchi possono entrare i genitori e i bambini, gli anziani ultra sessantenni, però non altre persone. E perché? Perché a Padova, che è un po' un caso unico in Italia, il prefetto ha deciso di mettere una tendopoli, sì, proprio in centro storico all'interno del parco della caserma Prandina, e questo parco è proprio adiacente alla caserma. E cosa è successo? Che questi, chiamiamoli come vogliamo, migranti economici, ma in realtà sono clandestini, perché a Padova solamente 30 su 300 hanno avuto il riconoscimento dello status di, sì, rifugiato politico. Beh, saranno persone che hanno fatto una domanda, no, di rifugiato, se no, se fossero clandestini hanno fatto la domanda, però la statistica è quella, più o meno il 10% sono quelli che ottengono il riconoscimento. Sono in giro per la città, oggi c'è una polemica molto forte da parte della gente su questo accattonaggio che avviene in città da parte di questi, chiamiamoli migranti, chiamiamoli clandestini, come vogliamo, però occupavano il parchetto. Cioè il parchetto, invece di essere utilizzato dai genitori dei bambini, era utilizzato, erano occupati. E lei ha rispolverato, allora, questa ordinanza. Una raccolta firme, sì, ma capisce anche la faziosità di Gasma, perché questo mio provvedimento è nato da una raccolta firme molto estesa da parte delle mamme, sì, che ovviamente portavano i bambini al parco, e io non ho fatto nient'altro che attuare una richiesta ai cittadini. Cioè, dopo tutto questo deve fare il sindaco, deve cercare di dare risposte ai cittadini. Sì, certo, però, incredibile il fatto che Gasman, che ovviamente non conosceva la situazione, conosce anche poco Padova, perché è stato direttore artistico del Teatro Stabile di Padova. Sì? Però, non sapevo questo. Però mi dicono che avrebbe potuto partecipare a Chi l'ha visto, perché in questi anni si è visto pochissimo. Cioè, sta dicendo che si è rubato lo stipendio. questo non l'ho detto, però se uno ha l'incarico non fa quello che deve fare, allora lui pensa di conoscere Padova perché è stato direttore artistico del Teatro Stabile, e allora cosa fa? Vede che il sindaco di Padova della Lega fa un provvedimento e lui posta nel suo profilo la famosa panchina dell'apartheid, che dice vietato, ecco. Un po' così, è il risultato, che l'ordinanza vuol dire vietato ai neri in questo caso. Vietato agli adulti, e il provvedimento è preso anche su altri parchi, e chi ci ascolta capisce benissimo che i parchetti con le giostrine è opportuno che vadano le mamme con i bambini, le persone anziane. Io ho 44 anni, passo per Padova, sono senza figlio, non posso entrare in quel parco. Nei parchetti dove ci sono i giochi, i bambini no. Ma perché? Però eventualmente può venire sempre in comune da Massimo Bitonci, le offre un caffè. Ma ho capito, ma mi fa piacere, ma perché non posso entrare in un parchetto se non ho mio figlio al seguito? Perché se vale per tutti, perché vale anche per questa ordinanza. Questa ordinanza nasce da una serie di motivazioni anche del passato, cioè l'abuso che c'è nei parchetti da parte di soggetti che vanno magari a comprarsi le bottiglie di birra e di vino e si mettono a ubriacarsi. Questi sindaci che di ordinanze fanno. Ma guardi che l'effetto, però, cioè anche all'Arcella, che è un quartiere di Padova dove abbiamo il 30% di immigrati, e Padova è un caso un po' particolare, abbiamo il 15,2% di immigrati, 30% in alcuni quartieri. Anche là abbiamo recintato una zona dove c'erano spacciatori e dove andavano a ubriacarsi, l'abbiamo recintata, abbiamo applicato l'ordinanza, abbiamo messo i cartelli, abbiamo messo i giochi per i bambini, adesso la gente è contenta, almeno. Ma lì vanno bambini di tutte le etnie. Era il punto di capire che, insomma, di vietare a un adulto di entrare. Comunque questo è, però c'è un altro punto che mi ha molto interessato e sul quale vorrei capire perché lei ha tagliato il contratto dei mediatori culturali che affiancavano i bambini stranieri nelle scuole pubbliche cittadine, dicendo in realtà i bambini imparano benissimo, e questo è vero, hanno un grande apprendimento, grandi doti, e quindi in realtà sono i genitori che non capiscono la lingua, e ha tagliato i mediatori culturali. Ma che integrazione si può fare se lei ci taglia i mediatori culturali? Ma intanto io ho verificato, e questa offerta non esiste nei comuni con termini. Allora non capisco perché Padova, sono più di 8.000 comuni in Italia, vorrei vedere su 8.000 comuni in Italia quanti hanno proposte di questo tipo, visto che deve essere, insomma, la proposta e l'offerta uguale in tutto il territorio. Seconda questione è, abbiamo fatto una verifica di cosa facevano effettivamente questi mediatori culturali che costavano più di 100.000 euro. Cioè facevano i traduttori nei rapporti tra i genitori e gli insegnanti, però non con i bambini. È importante che anche un genitore allora capisca. Cosa ho pensato? Secondo voi è giusto che uno straniero che viene in Italia non abbia come primo obiettivo, come succede in Inghilterra, come succede in Germania, quello di imparare la lingua italiana? Io penso che sia la cosa... un genitore deve imparare però la lingua sindaco, italiana. Però sindaco, io glielo dico da esperienza quotidiana. Sai cosa ho fatto? Noi stiamo organizzando dei corsi di lingua italiana. Allora, con quei soldi che noi risparmiamo dai mediatori che ripeto, servizio, risultati praticamente nulli, noi faremo dei corsi di lingua italiana nelle scuole per i genitori. E questa è una cosa buona. No, ma questa è una cosa buona, anche perché gratuiti, è importante, sindaco, tutti. Lo dico da esperienza. Io ho due figli, uno va in una scuola, una va in una scuola elementare, metà sono stranieri in classe. E così rispondo anche all'ascoltatore che mi scrive: apri gli occhi, certo, e scendi nella realtà quotidiana. No, perché io vivo vicino a Viale Padova, però, a Milano. Io, quindi... io ho un'esperienza ancora oltre la sua, anch'io ho due figli. Due figli. No, dico, che è importante parlavano... che anche i genitori capiscono, perché se vengono alle riunioni che parlavano in russo, ecco, che parlavano in russo. Quando sono arrivati, e ovviamente ero in età scolare, nel giro di hanno un'elasticità i bambini che è incredibile. Ma sicuramente. Nel giro di un mese parlavano già e capivano già la lingua. Il problema non sono i bambini, è per sono questo che noi abbiamo. Il problema no. sono i genitori. No, ma questo, però questo genitore è vero. Deve impegnarsi. Però il genitore deve andare al corso di lingua italiana. Certo, il genitore è importante che capisca, perché sennò alle riunioni, se non capisce il genitore non capirà è un problema. All'inizio andrà al corso di lingua italiana e dopo si adeguerà. Cioè, dover per forza finanziare una figura di un mediatore culturale che faccia da traduttore, mi sono messo una cosa. L'ultima cosa, sindaco Bitonci, ma lei è uscito dall'ANCI, cioè l'associazione dei comuni, uscirà dall'ANCI, mi spieghi un po', dicendo che è un carrozzone. La settimana scorsa abbiamo fatto questa delibera di uscita definitiva dall'ANCI e neanche non ho nessuna intenzione di rientrarci, nonostante le telefonate di Fassino. Fassino è il presidente dell'ANCI, sindaco di Torino. Presidente e sindaco di Torino. Allora, l'ANCI negli ultimi anni, io sono stato componente anche del direttivo dell'ANCI negli anni passati, quando l'ANCI faceva veramente il contraltare rispetto al governo, anche quando c'era il governo di centrodestra, perché nel 2008 l'ANCI con i propri sindaci fece anche delle manifestazioni molto dure sulla questione del patto di stabilità e sui tagli agli enti locali. E adesso adesso no, è completamente appiattito sulle posizioni del governo. Se vediamo la questione dei migranti, cioè una rivoluzione in giro tra i sindaci, ma l'ANCI non fa nulla, cioè parla di accoglienza diffusa. Però se sono tutti leghisti i comuni, sono tutti leghisti i comuni che vogliono uscire. Siete tutti no, della no, se la provincia di Padova su 100 e passa comuni, già una trentina hanno disdetto il loro contratto con l'ANCI e ce ne sono metà della Lega, e metà ma no. metà anche di liste civiche. Cioè i sindaci si rendono conto che pagare questa somma per un servizio che non c'è e abbiamo visto poi gli stipendi che ci sono insomma per quanto riguarda i funzionari dirigenti dell'ANCI che sono 3-4 volte quello che prende un sindaco di una grande città, ecco, penso che negli anni purtroppo c'è stato, come è successo in altri enti, un carrozzone. La ringrazio, sindaco, devo andare. Sindaco Massimo Bitonci, Lega, sindaco di Padova, devo andare al traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Vabbè, sono le 8:53 minuti. Allora vorrei sentire Carlo da Milano che ci chiama, credo, però sul primo caso. Carlo, buongiorno. Il sì, caso buongiorno, che abbiamo affrontato dell'Ucraina. Sì. Sì. Al di là dello sconcerto per tutto quello che è successo, dico, il legale che ha rappresentato questa signora filippina non potrebbe riaprire il caso con un... Il caso è chiuso, cioè in che senso riaprire il caso? Nel senso che questo è dimostrato che è capace di intendere di volere, lavora, per cui... Ma sta in Ucraina. Una revisione dello stato mentale di questa persona non si può fare. Credo proprio di no. No, perché è stato giudicato incapace di intendere nel momento in cui ha ucciso questa persona. È andato per questo, su ordine del giudice, in un carcere, in un ospedale psichiatrico giudiziario, perché non è che incapace di intendere, quindi vai via, te ne vai via libero. In un ospedale psichiatrico giudiziario, dopo 4 anni è stato giudicato guarito e quindi basta, finita lì, cioè nel senso che so che è dura dirlo, finita lì dal punto di vista del suo iter giudiziario. Vogliamo chiudere con la segreteria telefonica, se ci sta, cioè chiudere questo spazio, poi andiamo avanti fino alle 9:30. Dai, eccola la segreteria nostra. Sì, Alino, abbi pazienza, c'ho un dubbio. Ma quelli che hanno votato a favore della legge Bavaglio, ma sono parlamentari o sono camorristi? A me la Boldrini è così antipatica da tanto tempo che oramai ha fatto il giro di 360 gradi e mi è addirittura diventata simpatica. Milan, hai fatto fino alle 9:30 e tira fino alle 10? Sei proprio un debosciato. Milan, la parola all'esperto. Io debosciai, tu debosciasti, egli debosciò, noi debosciammo, voi debosciaste, essi debosciarono. Tutto giusto, maestro? Caro signore Milan, siamo proprio rovinati qui, non c'è più niente da fare. Il paese nostro è il paese diventato il paese del gran conforto. O piove o tira vento o sono ammorto. Per fortuna che c'è il grande Alessandro, che gli manca solo di impasticare fuoco. Ciao Alessandro. Ciao Angelino. Allora andiamo avanti, dopo le 9 parleremo del caso Volkswagen, anche le polemiche sulla buona uscita dell'amministratore delegato Wintercorn. State con noi. Siete esploratori o abitudinari? Buongiorno da Maurizio Melis. Sono queste le due categorie in cui, a quanto pare, come individui ci dividiamo in rapporto alle nostre abitudini in fatto di mobilità. La scoperta recente dei ricercatori del CNR e dell'Università di Pisa, che hanno lavorato insieme a colleghi di università straniere e hanno pubblicato i risultati sulla rivista Nature Communication. Si tratta di una distinzione cruciale e molto netta che finora non era però mai stata individuata e che è emersa seguendo con il GPS gli spostamenti quotidiani di 67.000 persone e 46.000 autoveicoli. Poco più della metà di noi è abitudinario, mentre il restante 40-45% di noi è costituito da esploratori. L'aver individuato questa differenza negli schemi di mobilità delle persone può servire a mettere a punto modelli di propagazione delle infezioni più precisi e naturalmente è un nuovo elemento di cui tener conto nella progettazione della mobilità, dai servizi alle infrastrutture. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:50. Buona giornata. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. L'accordo che si è chiuso ieri tra il Monte dei Paschi di Siena e la banca d'affari giapponese Nomura pone fine a uno degli elementi principali dello scandalo che scoppiò nel 2013 e che travolse gli allora vertici del Monte dei Paschi di Siena, travolse la stessa banca e fece scattare diversi filoni di inchieste giudiziarie. In sostanza, il Monte dei Paschi ha chiuso un accordo di transazione con Nomura, pagherà 395 milioni per avere sottoscritto il famoso, ahimè, derivato Alexandria, e questa transazione comporterà un vantaggio, uno sconto per il Monte dei Paschi di 440 milioni. Tant'è che l'accordo avrà un impatto negativo, ma sulla banca giapponese, su Nomura, per 256 milioni di euro. Si chiude così un capitolo aperto di una vicenda che originò addirittura nel 2005, quando il Monte dei Paschi comprò dalla banca d'affari tedesca Dresdner Bank un derivato dal valore di 400 milioni di euro. Era uno strumento che si chiama collaterale, a garanzia. In realtà, quando arrivò il crack di Lehman Brothers, venne girato a Nomura a un prezzo fuori mercato. Certo, essersi liberati della spada di Damocle che rappresentava il derivato Alexandria è un bel colpo per il Monte dei Paschi e chiude un importante capitolo di un passato che sarebbe quasi da dimenticare. Il futuro, invece, è ancora tutto da scrivere. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Eccoci qui, sono Alessandro Milan, andiamo avanti fino alle 9:30 anche per oggi, ultimo giorno, e vogliamo parlare del caso Volkswagen. Allora, è un po' l'apertura delle prime pagine dei giornali da giorni. Per chiunque, per qualunque quotidiano, si possono trattare, avere molti approcci diversi, diversi punti di vista. Il Sole 24 Ore racconta come le borse ancora siano crollate, siano state affossate dallo scandalo auto ieri. c'è il fatto che si sta diffondendo questa idea del ma si sapeva già. Ecco, adesso tutti il noi lo sapevamo. Der Spiegel racconta proprio il Sole a pagina 3, Der Spiegel, settimanale tedesco, raccontava un anno fa, pur senza fare nomi di sospetti, i costruttori barano sempre più per rispettare i vincoli sui consumi, e si parlava di test, e si chiede al Sole 24 Ore, ma è possibile che nessuno abbia letto Der Spiegel, che nessuno abbia posto domande precise ai costruttori? E poi c'è il fronte italiano, il ministro dei trasporti Del Rio dice che ci sono circa 1 milione le vetture che potrebbero essere poste all'attenzione in Italia, anzi dicendo abbiamo chiesto alla casa automobilistica madre, la Volkswagen, di darci notizie di quante siano precisamente le macchine interessate, ma non abbiamo ancora ottenuto risposta. E poi le inchieste a Torino, Guariniello, il PM Guariniello ha già aperto un'inchiesta. Allora, ci sono tanti approcci. Intanto saluto Roberto Giardina, corrispondente a Berlino del Quotidiano Nazionale. Roberto, ciao, ben ritrovato. Buongiorno a voi tutti. C'è un altro aspetto che, se volete, è quello che crea più polemica, se volete è quello anche più populista: la buona uscita per l'amministratore delegato Winterkorn, che si intasca, se riuscirà a intascare tutta la liquidazione, su questo immagino che l'azienda tratterà, diciamo così per usare un eufemismo, potrebbe arrivare a quanto? 60 milioni ho letto, Giardina. No, 60 milioni, perché sono 28 milioni di fondo pensione, perché è un fondo che possiede ad arrotondare la pensione normale, più la 2 anni di stipendio. Lui era il manager più pagato d'Europa con 16 milioni e 600 mila euro all'anno. Lui diceva: mi guadagno fino all'ultimo cent, perché la Volkswagen sotto di lui era davvero più alto di tutti nel mondo. Effettivamente questo va riconosciuto, perché al di là del populismo e al di là di come è finita la parabola manageriale di Winterkorn, è vero, cioè dal punto di vista dei conti e delle vendite lui aveva portato ad alto livello Volkswagen. Però tutti si chiedono ora se dopo questo come dire finale sia lecito, sia giusto, sia etico, sia morale dare 60 milioni a questa persona. Probabilmente rinuncerà a qualche cosa. Oggi c'è il consiglio di sorveglianza della Volkswagen a Wolfsburg, dove lui dovrà rispondere, dovrà giustificarsi. Però c'è un fatto che realisticamente, se lo sapeva lui, lo sapevano quasi tutti, come diceva lo Spiegel, anche la Volkswagen, quindi lui può chiamare... Beh, però lui era il numero uno, diciamo, dal punto di vista della responsabilità aziendale, manageriale. Però sono già saltate le due teste nel gruppo Volkswagen, che era uno dei capi alla Porsche e un altro all'Audi, perché questi nel 2009, quando è iniziato questo inganno, questo trucco della Volkswagen, lavoravano alla Volkswagen, quindi non c'è un unico responsabile, sono diversi. Però un paese come la Germania, che è sempre anche abituata all'importanza del senso di colpa laddove si sbaglia, come giudica questi 60 milioni, cioè il popolo tedesco? Ci sarà una polemica sui giornali? Naturalmente c'era, come dici tu, c'era polemica, c'era un po' così, uno sdegno. Bisogna anche dire che c'è stato un altro, e questo è il capo dei sindacati interni della Volkswagen, Peter Haas, che aveva creato che ha autorizzato la settimana super corta di 26 ore quando la Volkswagen era in crisi. Lui, siccome era stato coinvolto in una specie di... No, non era un corrotto, lui faceva pagare tutto, le sue trasferte, l'albergo anche per la sua amante, la Volkswagen, aveva diritto a 1 milione di liquidazione e ci ha dovuto rinunciare. Cioè il capo dei sindacati che pagava l'albergo all'amante anche. Cioè lo metteva in conto l'azienda? Ha fatto l'azienda, perché naturalmente autorizzava tutte le varie cose sindacali. C'è una congestione, cioè i dipendenti partecipano alla gestione delle aziende, non solo la Volkswagen, non decidono quale modelli fare, ma per esempio si riducono gli straordinari, fanno straordinari non pagati. Cioè, si partecipa al piano industriale, nel senso che hanno un voto importante, ecco. Sì, appunto, e quindi poi naturalmente erano tacitati in questa maniera, diciamo, un luogo comune, tutto il mondo del paese, anche i tedeschi hanno un amante. Ecco. Anche i tedeschi hanno un amante, sì. Certo, immagino di sì. Poi c'è l'aspetto, se volete, voglio salutare Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno Rienzi, ben ritrovato. Buongiorno. Allora, in Italia che fate? Il Codacons è già partito, ovviamente, ha sprombattuto con testa bassa, esposti o no? Sì. Sì, abbiamo fatto un esposto a tutte le procure della Repubblica, 104 procure della Repubblica, ma soprattutto abbiamo chiesto di sequestrare i contratti della Bosch, per vedere a chi ha venduto quel software imbroglione, perché è di lì che capiremo quali altre aziende hanno fatto gli stessi trucchi. Perché voi temete e dite che anche altre case costruttrici potrebbero avere... Sicuramente, ma perché tutti truccano. E purtroppo, e anche i tedeschi truccano come gli italiani, non è che bisogna pensare che... Vabbè, però tutti truccano, uno poi lo deve dimostrare, insomma. Sì, potrebbe esserci qualche onesto, ma ecco, potrebbe esserci qualche addirittura. Onesto. Addirittura. Che fa? Fa l'avvocato Rienzi, mi fa l'inversione dell'onere della prova. Bravo, cioè, vediamo chi esce fuori onesto. Adesso vediamo quanti contratti, quanti software ha venduto Bosch, di quelli usati per imbrogliare. Il problema degli azionisti, però attenzione, perché questi hanno perso il 40% del loro capitale e sono anche tantissimi piccoli azionisti, le azioni sono anche nei fondi, e quindi noi partiamo oggi con una costituzione di parte offesa di tutti gli azionisti per chiedere risarcimento davanti al Tribunale di Torino, alla Procura di Torino, dove c'è in corso l'indagine. Quindi sul nostro sito oggi troverete il modo per potervi quelli che sono stati danneggiati dal crollo della borsa Volkswagen, esatto. Voi chiedete a Torino, perché a Torino è stata aperta un'inchiesta. Chi ha le azioni, chi ha comprato, chi ha in possesso di azioni Volkswagen e che ha perso praticamente la metà dei suoi soldi per colpa di questi signori, deve riavere indietro i soldi, deve essere risarcito, cioè, perché siamo stufi di questo fatto che la prendiamo sempre sulla capoccia, diciamo così, e non riusciamo mai a farci ridare i soldi che ci rubano, perché questo è un vero e proprio furto. Allora, io voglio salutare un altro ospite, una terza ospite, è Michela Maione, che è docente di chimica dell'ambiente all'Università di Urbino. Professoressa Maione, buongiorno. Buongiorno e grazie di essere con noi. Perché ieri sul giornale è stata diffusa questa notizia del "in Italia si sapeva già", adesso sa che c'è molto questa vulgata, ma lo sapevano tutti. Allora, la professoressa Maione coordina tra l'altro un progetto dell'Unione Europea, SEFIRA, che è un acronimo che riguarda appunto il controllo dell'inquinamento dell'aria, lo dico così molto sinteticamente. Più che altro è un progetto che è nato a supporto dell'implementazione delle politiche europee sulla qualità dell'aria. Scrive ieri il giornale che già a dicembre del 2014 era stata prodotta una nota da parte vostra in cui, almeno, ma adesso lei ce la spiegherà meglio, dalla quale si evinceva che qualche problema su questi test c'erano già. Ce lo spieghi, professoressa? Sì, non è la nota, noi l'abbiamo emessa appunto lo scorso anno, ma questa era una cosa che già si sapeva, appunto, come diceva lei prima, cioè si era visto che i livelli di ossidi di azoto nell'atmosfera erano non decrescevano così come ci si aspettava da quella che era l'implementazione delle politiche sulla qualità dell'aria che era già stata messa in atto, cioè entrata in vigore degli standard euro. Questo poteva far supporre che ci fosse qualche taroccamento, mi passi il termine, sui test? No, non si è pensato al taroccamento, ma si sa comunque che le auto diesel emettono, rispetto alle auto a benzina, delle quantità molto superiori di ossido di azoto. Il problema è questo, che durante i test di laboratorio le emissioni di ossidi di azoto erano al di sotto dei limiti che erano consentiti dalla legislazione. Invece, andando a fare dei test su strada con cicli di guida reali, si vedeva che queste emissioni erano decisamente superiori. E come mai questa differenza? È proprio per quella che è la caratteristica del motore diesel. Cioè, il problema è stato questo, che quando negli anni 90 si è fatta in Europa la scelta scellerata in qualche modo di promuovere l'auto diesel, facendola passare come un'alternativa pulita all'auto benzina, semplicemente sulla base del fatto che l'auto diesel emette meno anidride carbonica rispetto all'auto benzina, si sperava che la tecnologia sarebbe migliorata in modo tale da fare sì che anche le emissioni di ossidi di azoto diminuissero. E questo possiamo dire che è così, indipendentemente dalla truffa che è stata... indipendentemente dalla truffa, poi appunto questa... potrebbe essere una delle spiegazioni appunto di queste osservazioni fatte in atmosfera, cioè queste misure che venivano fatte in atmosfera, quindi questa sì, possiamo dire che potrebbe essere una delle cause, ma questo indipendentemente dalla truffa. Però io vorrei capire se in base alle vostre ricerche si poteva in qualche modo sospettare qualcosa, se voi avete semplicemente verificato che il fenomeno c'era qualcosa che non andava, però a certo, capire da che cosa derivava questo non era possibile. Penso che appunto sia anche corretto pensare che sia soltanto la Volkswagen che ha questo tipo di problema. Ma allo stesso tempo non si può neanche puntare il dito su altre case automobilistiche direttamente, cioè non esistono evidenze. Non esistono evidenze al momento, a meno che uno insomma non faccia, non trovi delle prove ulteriori. No, perché è importante quello che ci dice la professoressa Maione, anche perché in Germania non so se sia psicosi, non so se la stampa si sia spinta un po' troppo in là, sta di fatto che è stata subito messa nel mirino anche BMW, è vero Giardina, anche BMW sono state diffuse delle notizie di stampa, sarebbe coinvolta, ovviamente notizia smentita, però di questi casi basta una notizia del genere e il titolo che succede in borsa è il titolo crolla. Le azioni di BMW non sono crollate con quelle della Volkswagen, ma sono scese parecchio, credo 7-8-10%. Qual è la questione BMW allora? La questione di BMW ha usato gli stessi trucchi della Volkswagen, però diciamo adesso non voglio fare l'avvocato difensore, io una volta un tecnico della BMW diceva che tutte le macchine BMW che lavorano nell'aeroporto di Monaco, di Baviera, vanno a idrogeno, e allora potrebbero cambiare immediatamente tutti i loro motori da benzina a idrogeno senza grandi difficoltà, però sono le grandi industrie petrolifere, guarda un po' anche americane, che boicottano questa trasformazione, quindi se il mondo è appestato non è soltanto colpa di un'applicazione sulle macchine diesel. Questo sì, vorrei sentire Graziano da Venezia, 800 24 0024, il numero verde per intervenire. Graziano ci chiama. Buongiorno Graziano, un saluto a tutti. Io non sono un tecnico, valuto a seconda delle cose che noto nel tempo. Sì. Le macchine americane hanno un consumo enorme rispetto alle nostre di carburanti, da benzina a qualsiasi altra cosa, sì. Non entro nel merito, ma motori 3.000, 4.000, 6.000. Los Angeles ha uno smog infinito, sì. Gli Stati Uniti non hanno sottoscritto i patti di riduzione dell'inquinamento mondiale di Tokyo, questo risulta dagli atti, ci hanno riferito così. Io intravedo invece sotto quel discorso della falsità dei dati che ha fornito, un attacco dell'industria americana come fece contro il Concorde francese ai tempi, perché loro non erano in grado di produrre in quel momento. Lei dice è un attacco dell'industria americana contro i produttori europei. Esattamente, soprattutto tenendo conto del fatto che la Volkswagen ha fatto un'enorme fabbrica in Russia. I patti europei con i russi possono avere, ci sono delle dichiarazioni. Sì, insomma, è una lettura anche di geopolitica, se vuole, oltre che di per politica me, industriale sì. globale. Graziano, me, vabbè, sì. la prendiamo, guardi, la giro all'avvocato Rienzi, che è uno sempre abituato a pensare male delle cose. No, io dico ben venga questo attacco degli americani all'industria europea, se serve per scoprire questa cosa. E io chiedo però alla professoressa Maglione, ma quello che aveva scoperto, sì. cioè che i dati in laboratorio non coincidevano con quelli su strada, esatto. dove sono stati comunicati e a chi? Perché loro anche sono pubblici ufficiali. Allora adesso tutti sono bravi a dire noi lo sapevamo, abbiamo scoperto, abbiamo sospetto. Coordinando questo vogliamo progetto sapere dell'Unione... a chi l'avevate infatti, denunciato. Coordinando questo progetto dell'Unione Europea, professoressa Maglione, a chi l'avete detto? All'Unione Europea? Diciamo una cosa, questi dati sono dei dati che sono noti da anni, non sono cose certo. che abbiamo scoperto noi. Ma a chi li avete dati? Cioè, tutti. Una volta che voi li avete raccolti, li avete. No, lo sanno tutti, tant'è vero che nella nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria, il pacchetto, il nuovo Air Quality Package, che è in discussione la settimana prossima a Bruxelles, si fa chiaramente riferimento a questa cosa. Si fa riferimento alla questione. Quindi erano andati pubblici. Al fatto che i consumatori dovrebbero essere informati nel momento in cui fanno una scelta, devono fare delle scelte consapevoli. Sì. Cioè, il consumatore che compra un'auto diesel deve sapere che nel momento in cui acquista quell'auto inquina di più rispetto ad un'auto a benzina. Questi dati non sono mai stati tenuti nascosti, come dicevo, sono stati addirittura inglobati nel nuovo Air Quality Package. Mi sembra di capire, Rienzi, questo è il punto, che i dati sono pubblici, ma la correlazione tra quei dati che hanno trovato qualcosa che non andava e da lì il passo successivo a dire vuol dire che c'è un trucco nei test, è quello che manca, Rienzi, è quello che il passaggio che lei fa già, avvocato, no? Ma che in realtà non è stato riscontrato, no, Rienzi? No, perché se i dati di laboratorio sono diversi da quelli su strada, ho capito, ma non si sa perché. Non c'entra con la direttiva europea che devono discutere prossimamente, quella riguarda ma un ricercatore, il fatto della corretta informazione. Ma se io come ufficio pubblico rilevo una differenza tra i dati dei test per strada e i test in laboratorio, ma l'hanno detto, devo mandare alla Procura della Repubblica. Ma no, ma perché la Procura della Repubblica, avvocato, l'hanno comunicato questa discrepanza di dati, poi capire da che cosa ma l'hanno comunicato al pubblico, un dato pubblico, dottoressa, mi dica su quale rivista, professoressa Maione, sono cose che lei trova in tutti i tipi di pubblicazioni che riguardano tutti i rapporti anche dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Però dice l'avvocato Rienzi che laddove avete trovato questa discrepanza dovevate sui test, dovevate andare a denunciarla più che... No, ma la discrepanza era, è stata vista facendo delle misure, sì, delle misure su strade, quindi vedendo esistono studi pubblicati, io se vuole gliela mando al bibliografia. No, ma è chiaro, gliela manderà l'avvocato Rienzi che magari gli servirà per le sue cause. Appunto, ma quello che dice l'avvocato, che quello che ha spiegato lei a noi, cioè che avete fatto dei test su strada che hanno dato dei risultati diversi, vi doveva far sorgere il sospetto, seguo il ragionamento dell'avvocato Rienzi, e andare a una procura della Repubblica invece che solo dire noi registriamo questa differenza. No, guardi, i dati sono dati che provengono, come dicevo, da tutta Europa, è una constatazione che è stata fatta in tutta Europa analizzando i dati delle centraline di tutta Europa. E voi vi fermate lì, dice, come ricercatrici, noi ricercatori, noi ci fermiamo ad osservare. Avvocato Rienzi, se la faccia mandare e la metta in allegato nei suoi esposti, cosa devo fare? Certo, sì, mandatela, ma sono loro che devono, sono sempre dei pubblici funzionari. Ma non è che loro devono fare un esposto, loro registrano, sono un centro di ricerca. Devono anche fare un esposto, perché non basta mandarli all'Europa. Se io rilevo questa differenza, vado dai NAS sotto casa e dico, guardate, prendete questi dati e fate l'indagine, così si scopre le cose. Qua in Italia tutti fanno ricerca, vengono pagati per fare ricerca, e che ci facciamo con queste ricerche? Ci ritroviamo con 11 milioni di macchine che fanno schifo perché inquinano, e il Ministero dell'Ambiente, l'avete sentito dire qualche cosa in questi giorni? Galletti, dovrebbe costituirsi parte offesa come Stato, allora, perché lo Stato ha subito un danno gravissimo per correttezza ambientale. Devo dire, Galletti, a parte che ha detto se riscontriamo che ci sono state delle truffe anche da noi blocchiamo le vendite. Poi Galletti, Rienzi, l'abbiamo cercato anche noi, oggi non poteva intervenire perché era in viaggio per New York per un impegno istituzionale. Tutti a New York. Oggi lo diffidiamo a costituirsi per lo Stato per York, i danni che ha subito lo Stato. Ma potrà andare a New York per un impegno istituzionale? No, ma ministro dell'Ambiente. A New York, qui che ne so, sarà andato col Papa. No, non lo so se è andato dal Papa, non credo. Però Giardina, come intravede una fine di questa vicenda, al di là di capire alla fine si raccoglieranno i cocci, no, anche alla Volkswagen di tutto questo, e forse anche alla BMW, se verrà coinvolta la BMW, ma non si sa, per il momento no. Ma si intravede una fine di tutto questo? Forse non si intravede, ma si spera. Già ieri hanno cambiato, Winterkorn ha avuto già un suo successore, i tedeschi vanno rapidamente. Poi vorrei dire che forse non ha tutti i torti l'ascoltatore veneto, perché questo non è un attacco al Made in Germany, è un attacco al Made in Europe, coinvolta tutta l'industria europea. Adesso vedremo cosa succede. Poi trovo che ci sia un po' di ipocrisia in tutto questo scandalo, perché io non credo che ci sia uno che compri un'auto perché poco inquina poco, la compra perché costa di meno e ha certo. Sì, io sono poche le persone che sono così attente a dire compro, prendi le offerte, prendi o quella che ti piace dal punto di vista delle prestazioni, dell'estetica, però certo bisognerebbe avere anche questa consapevolezza. Voglio dare la parola, ci ha chiamato Michele Campostrini, ci dico, da Vicenza, buongiorno, che è presidente, buongiorno Michele Campostrini. Buongiorno. Presidente? Dukic dei Dream SRL, citi su un importante quotidiano nazionale, non voglio fare il nome, sia ieri che oggi, in prima, seconda, terza pagina. Può dirlo il nome, il quotidiano? Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano. Esatto. Che è già uscito anche due o tre mesi fa con questo scoop. Non vorrei, come dire, farmi bello di nulla, ma insomma, questo casino in Italia, mi sia permessa l'espressione, l'abbiamo involontariamente e purtroppo causato noi, perché da 7 anni ci negano una omologazione al Ministero dei Trasporti. Mm-hmm. E tutta la denuncia che è partita come disastro ambientale 4 anni fa, e non ieri a Torino, ma 4 anni fa a Terni, è stata una denuncia che abbiamo presentato noi, perché sì, ci nega l'omologazione. Noi avevamo, quindi lei mi scusi, sta dicendo che con questa omologazione avete fatto scoppiare voi il casino della Volkswagen? Certamente no. Mi ha messo in bocca parole che io non ho detto. Certamente il casino della Volkswagen, mi scusi, è arrivato ad hoc per sollevare il coperchio da un pentolone che è un marciume generale, ok? Qui tutti quelli che devono controllare fanno finta di parlare, di dire che loro controllano tutto, ma nessuno controlla nulla. Sì. Noi abbiamo un'omologazione che viene tenuta, e voi siete tra i pochissimi che danno, oltre al Fatto Quotidiano e Report, sul quale siamo usciti 2 volte nel 2011 e nel 2014, un'omologazione che con un prodotto che migliora la combustione a monte, ed è qui il punto focale, migliora la combustione a monte, noi abbiamo trasformato un veicolo da Euro 3 a Euro 4, sono 7 anni che il Ministero ci nega le omologazioni per trasformare senza nessun filtro antiparticolato la combustione dei veicoli. Quindi attenzione. Devo chiudere, Presidente, dica in 10 secondi. Dico solo che volessero risolvere il problema tutti i costruttori, perché qui non si parla solo di Volkswagen, sono tutti coinvolti, tutti. Perché il sistema è il concetto che è sbagliato, si lavora per guarire una malattia, quando invece si potrebbe tranquillamente, ci sono i mezzi e noi l'abbiamo dimostrato con i numeri, è tutto in mano ai tribunali. Pigliatone l'altro giorno ha dato a noi quella famosa lettera che trovate su tutti i giornali, l'ha dato a noi personalmente. Va bene. Okay? Si potrebbe trasformare, migliorare nettamente la combustione. Va bene, si fermi lì però, perché sennò sforo. La ringrazio e con lei ringrazio tutti, e ci ritroviamo lunedì alle 6:30.